English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli, e anche un augurio di buona Pasqua, perché domani ci siamo, ma questa sera, sabato, è come sempre il momento di dedicarci al nostro English 24. Abbiamo già cominciato la scorsa settimana a parlare del Titanic. Sono i giorni in cui si ricorda l'affondamento della nave che più ha toccato i cuori per 100 anni, insomma, non ci siamo mai dimenticati di quel disastro. Anche grazie a un film che uscì nel 1997, un film memorabile con Leonardo DiCaprio, con Kate Winslet, un film di James Cameron. Questo film, questo fine settimana, esce di nuovo al cinema. Titanic esce restaurato e rivisto in una versione 3D. Non è la prima volta che parliamo di questo argomento, delle nuove versioni in 3D nei film, ma James Cameron ha dichiarato che per lui era un desiderio da molto tempo. Quindi sentiamo come James Cameron ha parlato di questa versione 3D del Titanic. I've been looking for years for an opportunity to put Titanic back on the big screen, because that's really where it belongs. So we started to explore the idea of converting Titanic to 3D. The question was, when do we do it? And I always felt that the centenary of the real sinking would be a perfect opportunity. The movie is about relationships and our feelings for each other, and so parents were taking kids, and kids, adult kids, were taking their parents. It was this transgenerational sharing kind of experience, and people were really choosing who they were going to re-experience the movie with. And I actually think it could work the same way in this re-release. Allora, era un'opportunità, un'occasione che, dice James Cameron, aspettava da tempo. Sì, e qui troviamo quella forma che a me piace tanto, perché in italiano non ne abbiamo un'altrettanto efficace, che è I have been looking for years, che ci dà l'idea di una cosa che si è svolta in un lungo periodo di tempo. E sappiamo che se il periodo di tempo non è ben determinato, bisogna dire for, quindi four years, per anni. Se invece avesse detto è dal 1969 che cercavo questa opportunità, avrebbe detto I had been looking since 1979 for this opportunity. Questa frase è fantastica, c'è di tutto, anche to look for, che è uno dei nostri amici phrasal verbs, che vuol dire cercare, quindi erano anni che cercavo queste opportunità. Intanto voleva rivederlo al cinema, perché noi siamo abituati a vedere il film al cinema per poco tempo, poi in televisione, insomma su altri supporti, ma lui dice io volevo rimetterlo nel grande schermo. Sì, perché dice, quindi big screen, esattamente come diciamo noi, il grande schermo, because that's where it belongs, letteralmente lì è dove appartiene, ma noi in italiano diciamo perché il suo posto è lì. Ecco, il posto del Titanic, secondo il suo regista James Cameron, il più famoso dei suoi registi, perché poi di versioni cinematografiche del disastro ce ne sono tante, però secondo James Cameron, insomma, il posto del Titanic è come se fosse una grande movie star, e quindi deve stare sul big screen. E poi appunto ha cominciato a esplorare, verbo che per Cameron è particolarmente indicato, l'idea di rifarlo in 3D. Sì, e lui ci dice chiaramente the question was, cioè la domanda era, il punto era when do we do it? Ma quando lo facciamo? Perché beh, gli americani sono un po' fissati con queste cose, ma forse anche giustamente, insomma ci vuole una buona scusa per fare una cosa di questo genere, e quale scusa migliore che centenary of the real sinking. Sinking naturalmente l'affondamento, anche se sink è anche il lavandino, però invece sinking, to sink, il verbo è affondare, sinking l'affondamento, quindi il centenario della fondamento. Tra l'altro, quando lui dice explore, mi viene in mente che questo signore è fresco di esplorazione della fossa delle Marianne su un piccolo sottomarino, quindi ha veramente un'attrazione fatale per le profondità marine. E però la mette anche sul sentimentale questa versione 3D, oltre sì, all'emozione di rivederlo sullo schermo. Beh, dopo lo dirà chiaramente, insomma lui è proprio innamorato del Titanic e anche del suo film, e dice che addirittura, insomma, questo in occasione della prima uscita, in realtà lui aveva notato che c'era questa parents were taking kids, quindi i genitori portavano i figli, e adult kids, cioè i figli diventati adulti, were taking their parents, portavano i loro genitori, perché c'era questo transgenerational sharing, questo scambio intergenerazionale di tutto quello che il film secondo lui porta a galla, cioè le relationships, le relazioni tra persone, and our feelings for each other, e le emozioni che proviamo gli uni per gli altri. Cosa che potrebbe accadere anche in questa re-release, questa seconda uscita, potremmo tradurlo così. Sì, quindi could work the same way, sappiamo work lavorare, però in questo caso vuol dire funzionare, quindi could work, potrebbe funzionare nello stesso modo, in this non release, perché release sappiamo anche dai tutte le versioni dei computer, dei programmi per computer, è la prima uscita, re-release, questa nuova uscita, che poi in realtà è, come sentiremo dopo, non è semplicemente una trasposizione in 3D, ma qualcosa di più. Noi ormai definiamo Cameron il regista di Avatar, ma come dicevi tu, ama Titanic in modo molto particolare. Sentiamo come lo definisce. Titanic's my baby, so, you know, of course I'm going to roll up my sleeves and get involved in every step of the process. We started with how do we make Titanic everything that it can be before we put it in 3D. So we cleaned it up and made it as pristine as possible before we even started the conversion process. So if you even watch it in 2D, it looks more amazing, I would say, than it did in 97 when it was first released. 3D definitely enhances small human interaction. Intimate moments are very powerful in 3D because you feel like you're really there. Converting a film to 3D is not a magic wand. You have to create everything when there's no 3D information from that original moment of photography. Titanic is my baby. Beh, è proprio un figlio questo film per lui. Sì, potremmo appunto, tra l'altro, possiamo dire che o è un figlio o è una fidanzata, perché a volte in quante canzoni, no, sentiamo usare baby come fidanzata. Perciò, insomma, comunque è un grande amore, ecco. E quindi dice I will roll up my sleeves, quindi letteralmente mi arrotolerò le maniche, mi tirerò sulle maniche, diciamo noi in italiano, perché questo non è un lavoro, non è una semplice trasposizione, ma un grande lavoro, quindi vuole get involved in every step of the process. Quindi quando c'è stata l'idea ha detto vabbè, non è che vi do il permesso di farne una versione 3D, I will get involved, voglio essere coinvolto in questo evento. Un conversion process non molto semplice, perché effettivamente un film girato è nato prima del 3D, non era pensato già in qualche modo. E tra l'altro lui ha fatto un'operazione che vabbè, forse un esperto di cinema può, beh, forse tu già la puoi capire molto più di me, ma ha fatto questo cleaning up, cioè ha pulito il film per renderlo as pristine as possible. Pristine può voler dire sia versione originale sia anche molto chiaro, perciò appunto l'ha pulito tutto in modo che da pulito che l'ha fatto tornare ha potuto iniziare questa riconversione. E poi ancora parlando del 3D, lui pone l'accento proprio sul sentimento, perché secondo lui ha un effetto particolare anche sul coinvolgimento emotivo. Beh, io sì, guarda, andrò a vederlo sicuramente per curiosità, io non sono un amante del 3D, ma forse anche perché mi danno fastidio con gli occhiali, però lui dice 3D enhances small human interaction. Questa particolarità, quindi lui che appunto regista di Avatar, ci aspettiamo magari che pensi subito agli effetti speciali, all'affondamento, alla famosa scena in cui il Titanic lascia il porto di Southampton o quando si inclina, invece no, lui pensa alle interactions, alle interazioni tra gli esseri umani, le piccole interazioni, quindi i gesti, perché dice il 3D in questi intimate moments you feel like you're really there, ti fa sembrare di essere veramente lì, e questo è una grande, un'emozione enhanced, aumentata. Ma qual era l'effetto che voleva ottenere? Sentiamo ancora James Cameron. I wanted it to be the equivalent to what it would have looked like if we had actually shot it in 3D. So if I'm going to do a conversion, it has to live up to that standard. I think Titanic will have a different meaning to people who saw it 14, 15 years ago that have gone on in their lives, maybe gotten married, maybe they have children, maybe they're going to look at love and life and what has meaning differently now than they did then. Maybe it'll be less about the glow of romantic love, which is a teenage idea, and more about that sense of duty and what we're here on this planet for, and what we mean to each other, and all those things that older audience members get out of it. So Titanic always has something for you, no matter what your age. Abbiamo parlato dell'effetto della Titanic 3D, duplice effetto, un effetto filmico e un effetto ancora una volta sentimentale, emotivo. Sì, io ho un po' di brividi a sentire così nel sottofondo la musica romanticissima, a sentirlo parlare di romantic love, vabbè, andrò a rivederlo. Comunque, dice che voleva proprio farlo sembrare if like we had actually shot it in 3D, perché è chiaro che il film non viene rifatto, quindi lui però vuole che sembri come se fosse fosse stato girato direttamente in 3D, cosa che naturalmente nel 97 non era tecnicamente possibile. E quindi il film deve dare la stessa impressione di quello del 97, quindi non deve sembrare finto, deve mantenere lo stesso livello. Quindi to live up to that standard, to live up è un altro phrasal verb bellissimo che vuol dire rispettare le aspettative sostanzialmente, cioè se tu hai uno standard, I live up to that standard, sono in grado di soddisfare le aspettative che l'aver decretato quello standard inevitabilmente crea nelle persone, in questo caso negli spettatori. E poi fa questo paragone perfetto per noi, perché io appunto adesso 42 anni, 15 anni fa ne avevo un po' di meno, l'ho visto e dice people who saw it 14, 15 years ago have gone on in their lives, sono andati avanti con le loro vite, certo, e quindi now they look at love and life in a different way, vero? È sicuramente così, però James Cameron non pensa solo agli spettatori che erano ragazzi o adolescenti allora, perché ogni età ha visto Titanic in maniera diversa a quel tempo, lo può rivedere in maniera diversa ora. Sì, il tema dell'amore c'è comunque secondo lui, e poi devo dire che essendo un personaggio insomma così appunto avventuroso, lui che scende nella fossa delle Marianne e poi però parla con questa voce molto sommessa e quasi dolce di amore, e quindi lui dice forse all'epoca chi l'ha visto era molto giovane, ha visto questo glow of romantic love, cioè questo fascino, questa patina dell'amore romantico che è un po' una teenage idea, che è un po' un'idea dell'adolescenza. Invece adesso vedranno sempre l'amore, ma lo vedranno con un sense of duty, un sense of what we mean to each other, il senso di che cosa siamo gli uni per gli altri, e che naturalmente si capisce molto, in modo molto particolare, quando si rischia di perdere l'altro o gli altri, come è successo ai passeggeri del Titanic. Anche appunto questo senso del dovere e quello che insomma che ci stiamo a fare su questa terra, addirittura sì. Vede il Titanic come una metafora di qualcosa di molto più grande di noi. Sì, questa è una cosa, se volete, anche molto americana, no? Che ognuno ha effettivamente un dovere, lo si vede anche insomma nella quantità e nella qualità della beneficenza che fanno le persone che sono molto benestanti, per loro è una cosa normale, quindi è un duty, è il significato, quindi un dovere per il fatto stesso that we are on this planet, e quindi l'amore e forse appunto una maggior comprensione dell'esistenza, del perché si vive e di come si dovrebbe usare il tempo che si ha sulla Terra nel modo migliore possibile. Ma se prima parlavamo del glow of romantic love, che era una teenage idea, cioè un'idea da ragazzi, anche per i più anziani, tra virgolette, il Titanic andava e va benissimo, dice il suo regista. Allora, insomma, non dimentichiamoci che Titanic is my baby, che è la sua fidanzata o il suo bambino, come secondo me è proprio la sua fidanzata. Tu pensi più il suo amore, baby love, non la sua creatura. e quindi dice Titanic always has something for you, ha sempre qualche cosa per te da offrirti, no matter what's your age, non importa quale sia la tua età. Questo no matter naturalmente è un'espressione che si usa molto, anche non so, no matter what you think, non importa quello che pensi, no matter what you eat, non importa quello che mangi, e poi in generale segue una seconda frase, quindi no matter what your age, qui lui ha scambiato l'ordine delle frasi, comunque no matter what your age, non importa quale sia la tua età, Titanic always has something for you. Beh, insomma, altro che uno spot pubblicitario, ci ha convinto in tutti i modi ad andare a rivedere questo Titanic 3D. Noi siamo sempre state un po' scettiche, abbiamo sempre parlato di queste conversioni in 3D come delle operazioni un po' commerciali, invece lui ci ha spiegato che era un suo desiderio da sempre, quindi rispettiamo il desiderio di questo folle James Cameron e andiamo a vedere questo film che mi hanno detto, non ho ancora visto, essere particolarmente impressionante in 3D, ma questo weekend controlleremo. Il nostro tempo radiofonico finisce anche per questo sabato sera. Ringrazio Filippo Aureggi in regia e vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata e di una buona Pasqua.